Summertime di Elisabetta Fiorito. Gigliola? Sì? Sai, su questo libro ho letto una cosa meravigliosa. Ma è una cosa che posso ascoltare? Direi di sì. Con tutte e due le orecchie? Sì, senti. Sì. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è equivalente al quadrato costruito sull'ipotenusa. Oh no, no, non devi dirmi queste cose. Ma Gigliola, non c'è niente di male. Non ho l'età. Oh, ma Gigliola, viviamo ormai in un mondo che non è più quello dell'Ottocento. Tutte le ragazze della tua età conoscono il teorema di Pitagora. Non è vero, lo dici tu che sei un ragazzaccio. Soltanto le ragazze sfacciate. Io sono ancora il triangolo isoscele, che è un triangolo serio. Buon pomeriggio con questa vecchissima clip tra Pippo Baudo e Giuliola Cinquetti sul teorema di Pitagora. Introduciamo l'argomento di Summertime di oggi. Andiamo a Capocolonna, a Crotone, nel parco archeologico, perché questa sera alle 21.30 si parlerà proprio del grande matematico e filosofo greco, il primo vegetariano sulla faccia della terra di cui si abbia conoscenza, che però osteggiava le fave, questo bisogna dirlo, però che scrisse dei grandissimi teoremi ancora tutt'oggi validi. Allora, buon pomeriggio a Mimmo Pantano, che interpreta Pitagora e la Magna Grecia sul palco, e buon pomeriggio anche a Mario Moretti, che è l'autore del testo e nonché il regista. Allora, iniziamo con Mario. Perché un testo su Pitagora? Le domande di questo tipo fatalmente portano alla risposta classica: perché no? Visto che siamo anche nella Magna Grecia, perché non rinverdire il nostro passato, il passato della nostra cultura, cultura che appartiene a tutti noi? In fondo la storia è molto più interessante dei giorni nostri. Dell'attualità. Allora, sul palco appunto a interpretare Pitagora, quindi c'è appunto Mimmo Pantano. Qual è la cosa che ti è venuta in mente quando hai indossato questi panni? Insomma, eri così avvezzo alla matematica, eri bravo in matematica, per esempio a scuola, visto che il primo scoglio su Pitagora è proprio il teorema. Sicuramente no, guarda, non credo di essere un grande matematico io, neanche un grande conoscitore. Ero, diciamo, molto attratto da questo personaggio incredibile, favoloso, che ha segnato la nostra radice culturale, quindi VI secolo avanti Cristo, molte cose si tramandano fino a noi, ma non solo quelle scientifiche, ma anche quelle sulla dottrina, alcune cose sono arrivate anche oralmente, quindi ero più attratto dalla figura, dal personaggio, dalla sua dottrina e dalla sua metodologia, se vogliamo, non tanto su, e per quello che poteva rappresentare come immagine per il nostro passato storico, della nostra Magna Grecia, della nostra Calabria. Questo mi ha spinto più di tutto sicuramente a dare vita, diciamo, alla produzione teatrale, logicamente all'interpretazione di questo famosissimo personaggio. Proprio perché a un certo punto della sua vita Pitagora si trasferisce a Crotone, all'incirca nel 530 avanti Cristo. Quindi Crotone è particolarmente legata, no, a questo personaggio, però poi ci sono stati anche ritrovamenti, Bononzi di Riace, c'è una riscoperta, c'è una voglia di riscatto della Calabria in questo senso? Sicuramente, sicuramente. E una tra le altre cose che io mi sono prefisso, anche avendo, diciamo, dato vita con tanti altri miei colleghi al Centro Teatrale Meridionale, questo centro di produzione teatrale che è nato, è stato costituito a Roma e poi logicamente per le mie radici culturali, la mia radice di nascita è stato, diciamo, la sede qui in Calabria, quindi dal 1985 ha proseguito con varie, diciamo, lavori che comunque, oltre a quelli nazionali, quali riguardavano la nostra terra. Tra l'altro, ecco, una cosa che io mi sono prefisso nella linea, diciamo, di produzione di questo centro è trattare alcune figure carismatiche, alcune figure molto importanti, valorizzarle perché legate al sud o legate alla nostra terra. Quindi non è a caso, è una linea, se vogliamo, che oltre a essere un fatto spettacolare si prefiggeva di creare momenti alti educativi verso, diciamo, le nuove generazioni, quindi portare a conoscenza di figure che in qualche modo rischiano o rischiavano di essere trascurati e di non sbalzare, diciamo, all'attenzione né degli utenti in genere né neanche dei nostri politici, perché anche i nostri politici spesso si dimenticano delle nostre cose. Mario Moretti, è possibile invece oggi attirare in Calabria un polo, un pensatoio come è stato all'epoca della Magna Grecia? Sono passati un po' i giorni dei grandi convegni, delle grandi riunioni, delle grandi compagnie che si formavano fuori di paese o di città e costituivano delle comunità. Il tempo della comunità teatrale ormai è passato, quindi è anche giusto che sia così, perché di nostalgie ne possiamo avere tante, l'importante è andare avanti. Volevo dire che sul personaggio Pitagora... Infatti ti volevo chiedere, appunto, è un monologo, che cosa succede in scena? No, non è un monologo, ci sono 11 attori, quindi è un excursus sulla vita di Pitagora. Una vita tra l'altro leggendaria, perché documenti non esistono, nessuno è certo dell'esistenza teorica o pratica di Pitagora, al più si sa che sicuramente c'era una scuola pitagorica, c'era formata una specie di setta di studiosi che studiavano i fenomeni della natura partendo proprio dalla misura delle cose. Quindi questa è l'innovazione di Pitagora, consiste proprio nell'aver dato una dimensione precisa alla natura, alla vita, al luogo, eccetera. Quindi questa grande intuizione può essere attribuibile sia a un grande pensatore, filosofo, sia a una scuola collettiva che sia interessata di queste. Allora, appuntamento alle 21:30 questa sera al Parco Archeologico, capocolonna di Crotone per Pitagora e la Magna Grecia, un testo con tantissime persone in scena, e a ottobre, il 1 ottobre, per un evento speciale sarà al Teatro Quirino. Mimmo Pantano è Pitagora, Mario Moretti dirige e ha scritto il testo. Grazie. My name is Bob Guccione. I promise to make a new kind of motion picture, a picture so controversial, so innovative in its magnitude, that it would fundamentally change the viewing habits of the theater-going public. I made that film, and it's called Caligula. E questo è un trailer, vabbè, abbiamo trovato sempre un personaggio del passato, è un trailer di un film molto scandaloso all'epoca, è quello di Tinto Brass, che parla di Caligola. Perché? Perché Caligola è stato protagonista al meeting di CL di Rimini ieri, e protagonista di questo Caligola di Camus è un nostro amico Stefano Pesce, che ti sento praticamente sommerso da 3500 voci. Allora, Stefano, com'è andata e che cosa è successo? La platea di 3500 persone mi ha chiamato a fare questo Caligola e ho accettato, perché Caligola è così raro poterlo fare, un testo importantissimo per il Novecento, e soprattutto è la ricerca della felicità, il tiranno che cerca la felicità. Ecco, tu hai detto anche: ho dovuto detestarmi per interpretarlo, ho dovuto detestarmi. Per quale motivo? Beh, perché per fare questo imperatore devi entrare in una parte buia e nera di te, cioè dentro il disprezzo per l'essere umano, il desiderio di uccidere, dentro la follia, dentro il disequilibrio, dentro la non tolleranza, insomma tante cose, piuttosto complicato. Quindi un po' diverso da quello che una persona oggi ricerca, l'equilibrio, la felicità, la tranquillità. Beh, Sì, diciamo che Caligola fa tutto questo per dare felicità alle persone, soltanto che siccome è il teatro appunto dell'assurdo, Camus gli fa fare una serie di atti, cioè diciamo che sotto il pensiero, quello di Camus, è quello di le persone sono libere soltanto in punto di morte, perché in quel punto di morte sono spoglie dei propri pregiudizi, delle menzogne in cui vivono, e allora Caligola le mette a morte. Basta, ha usato soltanto la logica alle estreme conseguenze. Quindi è un Caligola un po' nazista, vabbè, insomma, diremo che i nazisti sì, diciamo erano che un po' Caligola. Ecco, sì, diciamo che in passato, cioè, intanto dobbiamo ricordare che questo testo è stato scritto in tre versioni, dal 41 al 58, quindi esattamente nel periodo più nero della storia dell'Europa, e quindi incarna sicuramente un uomo politico, si è pensato a Hitler, ma non c'è bisogno di arrivare a tanto, basta pensare grossi politici dei nostri tempi. Il fatto è che poi i politici dei nostri tempi non hanno neppure non fanno il tentativo di trovare la felicità per le genti che comandano, assolutamente no. Cioè, è molto interessante Caligola. Senti, molto interessante. Un'ultima cosa, Stefano, ma dimmi. Pubblico come quello di Comunione e Liberazione, quindi molto, sì, molto credente, no? Mm-hmm. E come si è trovato di fronte a questo personaggio negativo, il male, quello che loro potrebbero interpretare come il diavolo? Infatti io quando ho accettato di fare questo ruolo e presentarlo al meeting di Rimini, ho detto ma qual è il senso? Allora il senso è che Giussani ha pensato, ha letto questo all'epoca, sai, Giussani è sicuramente una persona che ha un cervello, ha avuto un cervello piuttosto brillante, e ha pensato che il desiderio di Caligola di andare oltre la contingenza, e quindi di liberarsi dei pregiudizi, è il desiderio di infinito, quindi di qualche cosa al di fuori dell'uomo, di superiore dell'uomo, e quindi credo di Dio. Secondo me questo non c'è dentro il testo. Dobbiamo ricordare chi è Camus, che è stato un uomo di sinistra, un uomo nichilista che ha scritto in un periodo terrificante, però Camus invece parla dell'uomo, e io per questo ho accettato, perché parlare di un ruolo del genere dove tutte le possibilità dell'uomo sono messe in scena attraverso questo personaggio, e questo personaggio poi prende la strada negativa, infatti alla fine lo dice, è un'occasione incredibile, al di là di a chi lo si presenti, no? Cioè, secondo me Caligola è Caligola, poi che il meeting lo voglio vedere secondo alcune luci, che poi un altro pensatore laico la voglio vedere da un'altra parte, e ognuno ha libera interpretazione, poi questa è la democrazia, è quello che serve al il teatro, a far pensare le persone, tutto lì. Senti, andrete in giro con questo spettacolo? Lo spero molto, lo spero. Io ho chiamato vari distributori, ho parlato con dei produttori, e per adesso è soltanto una presentazione, è un grosso spettacolo, siamo in 40 in scena e ci sono 30 senatori, poi noi del cast diciamo principale siamo 10 persone, 2 ballerini, una grossa scena con pedane rotanti, immagini, proiezioni, registrazioni. Insomma, quindi dici, io canto un pezzo rock. Perfetto. Perché, allora speriamo di dare un messaggio a chi fosse interessato. Caligola, interpretato da Stefano Pesce, è andato in scena ieri al meeting di Rimini di CL, avendo un grandissimo successo. La regia è Stefano di Otello Cenci. Otello Cenci, grazie. Summer Time. Il rilancio immediato in profondità, il tocco basso del vecchio, la palla Francesco Totti in tiro. Grazie Zampa, grazie per aver segnalato questa bellissima partita Lazio-Roma 3-3, perché questa sera si parla di calcio, ma si parla di calcio al fontanone dell'Acqua Paola, perché Giuseppe Manfridi interpreta 10 partite Lazio-Roma 3-3. Ora io non vorrei, regia di Daniele Lomonaco, io non vorrei poi mettere un po' il dito su una piaga che è accaduta in questo scorso weekend, Ma dove la Roma non è che sia andata benissimo, mi dispiace, sono romanista, lo posso confessare, però sentiamo un pochino questo testo, da che cosa nasce, Daniele, qual è l'esigenza? Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Giuseppe che, se non sbaglio, è collegato con noi. Assolutamente sì. Bene. No, intanto ci tengo a chiarire una cosa, io non curo la regia, diciamo, a me è venuta una volta l'idea di proporre a Giuseppe di interpretare, di scrivere prima e interpretare questi testi, 10 partite, è un progetto che si svilupperà su, per l'appunto, 10 partite, e abbiamo cominciato quest'inverno facendone intanto 3 e riproporremo stasera e domani sera al Fontano d'Estate la prima, l'atto primo, che è appunto Lazio-Roma 3-3. E nasce dalla straordinaria capacità di Giuseppe Manfredi di emozionare le persone con i suoi racconti. A me era capitato di vederlo ipnotizzare una platea gremita all'Argentina su un racconto che aveva anche degli accenti sportivi. Conoscendo e condividendo la sua passione per la Roma, gli ho proposto di provare a scrivere qualche cosa che potesse emozionare gli spettatori in una maniera in cui evidentemente fosse anche più emotivamente coinvolto di un qualsiasi gesto sportivo tecnico. Da lì è nata l'idea di questa collaborazione, poi mi sto occupando anche della produzione di questo evento, e devo dire che proprio per la straordinaria capacità di Giuseppe, sia nella scrittura che poi nell'interpretazione, questi atti stanno avendo un successo che va al di fuori di qualsiasi nostra aspettativa, tanto che poi ci hanno chiamato pure a Fontanone a riproporlo. Giuseppe, che cosa fai tu in scena? Insomma, tu stai lì al Giannicolo questa sera, no? A Roma, diciamo, però un po' giochi in casa. Vabbè, è vero, pure Lazio-Roma, un po' saranno laziali, molto pochi, dai, sono sempre una riga. Guarda, allora, innanzitutto, sì, grazie a Daniele per aver detto cose tanto, tanto belle e rincuoranti, perché comunque le pacche sulle spalle servono sempre. Trovo che sia sempre prezioso avere l'amico capace di farsi anche coach, no, alla bisogna, e l'altro coach, che è colui che appunto cura l'aspetto più squisitamente registico, è Stefano Sparapano, e coinvolto in tutto il decalogo. E allora cosa faccio? Racconto in modo teatrale. Sì, è vero, può essere che il pubblico ostenti un'inclinazione giallorossa, ci sta tutto, sono apparse molte sciarpe in platea, ma anche delle bandiere, ma il mio intento, il nostro intento è quello di trasformare comunque questi tifosi che si prestano ad essere spettatori e trasformarli in solo spettatori teatrali, cioè partecipi di un racconto che poi diventi un racconto squisitamente teatrale. Io faccio teatro, coniugo nell'anima, nel cervello, i campi di calcio con i palchi in legno delle scene, sono i miei due mondi interiori. Ho anche sognato calcarli di più i campi di calcio, non come giocatore tattico, diciamo, come portiere, ruolo a cui tengo molto, per cui ho un'affezione particolare. Però poi il teatro si è proposto non come l'alternativa consueta di una vita più ordinaria, perché a sua volta il teatro propone difficoltà nel quotidiano, cioè vabbè, ho lasciato vedere fare il calciatore, sono entrato alle assicurazioni, non è andata proprio così, sono entrato in un'altra precarietà. Quindi l'idea è quella di avere davanti il chiunque possibile e trasformarlo in uno spettatore, ascoltatore curiosito dal mio racconto, quasi che non sapesse come andrà a finire, anche se come andrà a finire è già detto dal titolo, no? Cioè, 3-3. Allora, 3-3. Daniele Lomonaco, 10 atti, quindi quante 10 partite diverse? Sì, sono 10 partite diverse. Poi tutte con la Roma? Tutte con la Roma, ovviamente, perché la Roma è il nostro filo, è il filo conduttore della nostra esistenza, vorrei dire, non solo della nostra passione, per quanto mi riguarda. Sì, ma tu lo sai che i nemici laziali ci chiamano zero titoli? Sì, questo ne sono perfettamente consapevole. E anche sabato, non è che abbiamo fatto sta bella figura con l'Inter. No, io poi sono un giornalista sportivo e seguo anche la Roma, per cui ti dico che stai rigirando il coltello nella piaga. Però ti dico anche che non conviene a nessun tifoso della Lazio tirar fuori mai il discorso delle cifre e delle statistiche al cospetto l'aspetto di un romanista, perché in assoluto non gli conviene, insomma, ne potremmo tirar fuori altre 100, ma non lo facciamo perché siamo sportivi innanzitutto. Senti, Daniele, già mi sta facendo ridere. Allora, ricordiamo, questa sera al Fontanone Estate, per i romanisti, ma non solo, anche per i nemici laziali, o per gli juventini, gli interisti, tutti coloro che si trovano in città, a Roma. Permettimi di aggiungere, per chi si sa o si reputa estraneo all'alfabeto del calcio, certo. è una narrazione in cui io e noi ci prefiggiamo di rendere significativi personaggi che colpiscono di in genere il pallone con i piedi, ma che tendono a un risultato, ecco. E questo risultato a cui tendono deve essere lo scopo del narrare e dell'interesse nel seguire questa narrazione, il come andrà a finire. Come andrà a finire, insomma, tipo Nick Hornby. Allora, ricordiamo uno splendido posto che è il Fontanone Estate al Gian Nicolo, per chi è in città a Roma, per chi è romanista e anche per chi non lo è. Grazie comunque ai nostri due artefici di 10 partite, Lazio-Roma 3-3, Giuseppe Manfridi e Daniele Lo Monaco. Ciao a tutti. Grazie a voi. Chi l'ha detto che il teatro non sia uno strumento, invece, che può essere benissimo destinata ai bambini, sì, proprio a formare i più piccoli, a sviluppare delle conoscenze che magari in classe con una lezione normale vengono perdute. Per scoprire che cos'è il teatro, educazione, scena e pedagogia in Italia, bisogna andare proprio a Tiespi, Serra San Quirico, fino al 29 agosto, un festival per dare spazio a gruppi performativi che hanno sviluppato una propria poetica, ma soprattutto per stabilire e approfondire le connessioni tra teatro, educazione e altre metodologie di intervento. Spero di essere stata precisa. Ornella Pieroni, è così? Sì, è stata abbastanza precisa. Diciamo che questo è un festival dove si possono vedere le esperienze più innovative di teatro che parla di argomenti diversi, di teatro che parla del sociale, che parla di diversità, ma diversità sia mentale sia fisica, ma anche diversità di idee. E tutto nasce all'interno di un laboratorio che ogni anno si tiene a Serra San Quirico, proprio di educazione e di pedagogia teatrale, quindi questo è molto importante. Che cosa fate in breve in questi giorni? Perché io vedo che l'appuntamento è alle 18.30 questa sera oppure alle 21.30, ci sono sia degli spettacoli teatrali sia dei laboratori, ecco, quindi c'è una diversificazione, no? Sì, intanto c'è un laboratorio dedicato ai docenti, agli insegnanti sulle metodologie di educazione e di come il teatro aiuta l'educazione e la pedagogia. Il pomeriggio ci si incontra per un aperitivo con gli artisti che poi presenteranno la loro performance la sera presso l'Arena del Teatro. Oggi è il primo appuntamento, quindi abbiamo questo aperitivo alle 18, così vi saluto. E poi alle 21.15 avremo il primo spettacolo, uno spettacolo abbastanza strano perché è uno spettacolo dedicato alla paternità, cioè alla figura del papà, perché la donna sa quando è madre, il padre è questa figura strana, quindi questo artista Enzo Valeri Peruta, che tra l'altro è padre di tre figli, si è posto proprio questa idea di pensare come un papà vive la maternità, e ci sembrava molto bello iniziare proprio con una, diciamo, con l'idea della nascita. Poi avete domani La Verità Facile da Dirsi, di regia di Daniele Boria. Sì, domani abbiamo un'esperienza della Rete del Sollievo di Iesi, dove Daniele Boria lavora anni con ragazzi che hanno dei disagi psichici, e quindi presentano questo spettacolo che è La Verità Facile a Dirsi, quindi un laboratorio che nasce con delle persone che sono diverse da noi perché hanno dei problemi. Poi Monio Vadia, mercoledì Il finto e il falso, poi Incontro aperitivo con Ginetta Maria Fino e Giuseppe Pino Mainieri, giovedì. Insomma, tantissimi gli appuntamenti fino ad arrivare al 29 agosto, performance del Master della Scuola Estiva del Teatro Educazione e poi Heina e il Ghoul, no? Insomma, tantissime cose. Io ringrazio allora Ornella Pieroni, organizzatrice della seconda edizione di Tiespi 2010, Festival di Teatro Educazione, Scena e Pedagogia in Italia. Grazie. Serra San Quirico, provincia di Ancona. Grazie infinite. Vi aspettiamo questa sera, grazie. Grazie. Allora, e per quanto mi riguarda, io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it oppure vedere gli appuntamenti sul nostro sito www.radio24.it. Allora, buona serata a tutti.